Uno dei talenti più evidenti dell'avvocato era proprio questa continua sua ricerca di intessere relazioni a tutti i livelli, non solo quelle legate alla sua impresa, ma anche in diversi altri settori culturali, sociali, partendo da una relazione fondamentale che riguardava la sua amata città di Torino, alla quale ha sempre dimostrato grande attenzione, ritenendo, già in tempi non così fortemente globalizzati, che il futuro dell'azienda torinese risiedesse proprio nel radicamento sul territorio e nella sua internazionalizzazione. I tempi difficili, che anche a lui non sono mancati, sono stati affrontati pensando all'importanza di intessere un fecondo raccordo con gli altri imprenditori, come presidente di Confindustria, ma anche con lo stesso mondo sindacale, che insieme a tutte le altre parti sociali ha vissuto e vive tuttora una stagione di profondo cambiamento. Questo autentico senso di apertura e di responsabilità sociale di impresa lo ha anche portato a considerare ogni lavoratore e la sua famiglia il valore portante della produzione, proponendo un modello di welfare aziendale che ancora oggi, insieme ad altri esempi straordinari nati in Piemonte, ritorna di grande attualità. L'innovazione non ha dunque riguardato soltanto il prodotto, ma anche tutto ciò che gravitava attorno all'organizzazione della produzione, a partire dalle persone. Certamente poi un merito circa il quale tante persone e famiglie gli devono profonda riconoscenza è di aver creato sul nostro territorio, in particolare attraverso importanti azioni formative per i più giovani, nuove opportunità di lavoro. E questo è oggi un richiamo per tutti coloro che possiedono questo talento, fatto di risorse, di opportunità, e sono chiamati a metterlo a disposizione per il bene di tutti, ricercando vie innovative e coraggiose per riportare quella speranza nel futuro di cui non solo la nostra città, ma l'intero Paese ha bisogno. L'avvocato Agnelli ha speso la parte conclusiva della propria vita a lottare con tutte le sue forze e la sua intelligenza per difendere non solo la sua fabbrica, ma tutto quanto essa rappresentava per Torino e per l'Italia. Aveva chiara la consapevolezza che in un mondo globalizzato non si trattava solamente di custodire una bandiera, un simbolo, ma di salvaguardare il fitto e articolato patrimonio di attività che una società divenuta grande nel mondo aveva accumulato nei decenni. Era ben consapevole che ogni segmento del lavoro e della presenza della Fiat venivano moltiplicati in un reticolo di attività indotte, soprattutto nel territorio torinese. Ed era consapevole altrettanto che il sistema Torino, nel suo insieme, doveva essere tutelato, promosso e sviluppato. Al di là delle scelte compiute all'interno delle strategie aziendali, credo vi siano almeno due gesti di Giovanni Agnelli che qui vanno ricordati. Lo sforzo per conquistare a Torino la designazione delle Olimpiadi invernali e la costituzione della facoltà di ingegneria dell'autoveicolo presso il Politecnico. L'uno e l'altro gesto, pur così diversi, mi sembra appartengono alla medesima consapevolezza, quella della necessità di continuare a costruire futuro per questa città. In un tempo come quello attuale, in cui le sfide riguardano tutti e si presentano complesse, particolarmente nel campo del lavoro, è necessario che ognuno metta a disposizione i propri talenti come risorse da trafficare insieme a quelle degli altri. La difesa di interessi particolari non è lo stile di coloro, come ci ha ricordato la scrittura, che permetteranno a distanza di tempo di essere ricordati con riconoscenza, come facciamo oggi con l'avvocato Giovanni Agnelli. Qui, nella nostra città, più che altrove, ognuno è chiamato a dare il meglio di se stesso, perché più forti e drammatiche sono oggi le esigenze di chi chiede aiuto immediato, ma anche di chi aspira legittimamente a costruire un avvenire che non sia fatto né di assistenza né di sussistenza. Lo dico con chiarezza, ma quanti sono responsabili in ambito politico, economico e sociale? Torino sta affrontando la crisi con responsabilità, intraprendenza e solidarietà. La città che tanto ha dato a questo Paese oggi ha bisogno però non solo di maggiori risorse economiche per investimenti produttivi e sociali, ha bisogno di affetto, ha bisogno di attenzione, di simpatia, di intelligenza per essere accompagnata a crescere di nuovo in una fruttificare la fede nel Signore Gesù, pur non ostentata ma vissuta concretamente sul piano etico e civile, può essere quel collante che anche oggi ci può accomunare nel ricordo e nel desiderio di meritare tutto ciò che abbiamo ricevuto da coloro che ci hanno preceduto, per contribuire a costruire quel futuro di progresso a cui aspiriamo e di cui ognuno deve sentirsi responsabile. Ecco perché di tutte le parole dell'avvocato Agnelli vorrei riportare qui una piccola frase catturata dal giornalista Enzo Biagi nella biografia che gli dedicò. «Mi piace il vento», diceva l'avvocato, «perché non si può comprare». Sì, il soffio di vita e di forza dello Spirito di Dio per cui esistiamo e agiamo ogni giorno non è nostra proprietà. Resta un dono gratuito che, se accolto e gestito con fedeltà e onestà, garantisce il bene comune e un futuro sereno per tutti, oltre al profitto più grande che è la vita eterna.